Allora torniamo in diretta e siamo in collegamento con una compagna che, oltre a essere Bibbia, sta preparando anche una serata questa sera a Centro Giallaperto contro gli sgomberi, contro la minaccia di sgombero dello spazio sociale che si trova nel quartiere Centocella, a via dei Resedi. Dici tutto, intanto come sta andando lì a Re Bibbia? Allora sì, buongiorno a tutti e a tutte, siamo qui appunto a via Bartolo Longo, dietro Re Bibbia, un presidio che è partecipato e è solidale e anche rumoroso, insomma stiamo cercando e stiamo anche riuscendo a farci sentire appunto anche a chi sta dietro le sbarre. E come citavo appunto Locandina, siamo però entrambi, come dire, dietro le barricate a lottare insieme, quindi stiamo aumentando il volume delle parole e della musica per far arrivare una voce appunto a chi sta dall'altra parte. Siamo tanti, stiamo camminando, c'è la murga, c'è la banda, sono tanti compagni e compagne, tanto appunto mi sono spostata proprio perché il volume è alto, sia della voce che della musica. C'è stato un piccolo presidio prima, adesso ci stiamo spostando e diciamo si stanno facendo una serie di piccole brevi tappe proprio sotto, diciamo, le finestre appunto di Re Bibbia. Volevi sapere anche di stasera? Sì, di stasera, dai, diamo l'appuntamento allora, a tutti i compagni, perfetto, che vorrebbero partecipare, gli diciamo come si svolge anche la serata lì a Centocella Aperta. Sì, allora stasera per la prima volta come spazio sociale abbiamo organizzato un capodanno che appunto abbiamo chiamato Resistente e Solidale, vista la situazione in cui si trova appunto oggi lo spazio sociale Centocella Aperta, cioè sotto minaccia di sgombero. Quindi per noi è importante essere presenti anche il 31, che è una data, come dire, anche simbolica e importante per, come dire, ripetere la volontà appunto di rimanere lì ancora moltissimi anni. E quindi stasera abbiamo dato un appuntamento per un capodanno comunque nelle nostre corde, quindi ci sarà un buffet vegan a sottoscrizione assolutamente libera come sempre, anche se appunto sei il 31, e dalle 21, e a seguire ci sarà, diciamo, un palco aperto, quindi sono tutti invitati a portare i propri strumenti e si farà appunto una jam sociale, ci sarà una lenticchiata, ci sarà una tombolata, diciamo nella più classica delle tradizioni. È un capodanno appunto che vuole essere appunto anche un modo per festeggiare tutti insieme, per come dire, anche per far sentire a tutti quanto siano stati importanti i compagni, le compagne, le strutture, tutti quelli che hanno attraversato lo spazio sociale in questi anni e che continuano a sostenerlo soprattutto in questo momento di difficoltà. Benissimo, invitiamo tutti a partecipare, sarà sempre una serata, diciamo, non solo ludica ma di lotta e di sostegno, anche perché deve arrivare il messaggio che i spazi liberati non si possono richiudere così semplicemente come loro desiderio, che vorrebbero tutti quanti rinchiuderci dentro casa e non socializzare più. Perciò quello è uno spazio in cui il quartiere lo utilizza per le proprie iniziative, per preparare l'intervento territoriale contro la speculazione edilizia, contro la speculazione dei parchi e via dicendo, insomma sappiamo lo spazio a quale noi della radio spesso ci facciamo riferimento anche per organizzare le nostre iniziative di sostegno e di sottoscrizione. Pertanto sì, l'invito a partecipare a questa serata che si terrà a via delle Resede a Centocella Aperta. Infatti volevo appunto ricordare solo questo, appunto via delle Resede 5, si può raggiungere con la metro C a fermata Gardeni oppure con il tram 5. La fermata è a 50 metri. Esatto, ma è stata così comoda. Ecco, e si arriva facile, insomma, se non tutti i mezzi che arrivano a Centocella, sì, a Piazza dei Mirti, il quartiere, quello che è tutto raggiungibile facilmente. Esatto, e per chi, diciamo, comunque vuole anche più informazioni o leggere qualcosa di più, anche il nostro comunicato sul 31 è centocellaaperte.wordpress.com o una pagina Facebook per chi, insomma, vuole una comunicazione un po' più rapida, più social e più veloce. E torno qui al presidio che, insomma, che si sta di nuovo reincamminando dopo un po' di pause fatte sotto le finestre, e quindi continuiamo probabilmente vi arriverà anche un po' l'eco della voce, delle voci e delle musiche. Adesso mandiamo direttamente la diretta dal camioncino, diciamo. Perfetto, va bene. Ciao, grazie, allora, auguri. Un saluto a tutti e a tutte. Buon anno a tutti. Ciao. Ciao.